Yes, people, questo è Jolly Roger. Buonasera a tutti e tutte, buon venerdì 20 gennaio 2023. E iniziamo quella che è la nostra nuova puntata settimanale dell'Original Lab radiofonico Jolly Roger. Siamo in diretta dal Brancaleone, come nostra consuetudine oramai, sempre on air dalle 17 alle 18. Salutiamo tutti gli amici e tutte le amiche del Brancaleone e soprattutto le nostre amiche del GAS con le quali condividiamo lo spazio, anche se in quest'ultimo periodo siamo un po' sparsi per vicissitudini varie, ma prima o poi ritorneremo a condividere lo spazio con le nostre amiche che ci supportano e ci sopportano alla grande. E un saluto alla nostra amica Alice, che anche questa settimana purtroppo per problemi di salute non è in studio con noi. Saluto il nostro amico Matteo, il nostro amico Luca, saluto il nostro amico Damiano, che anche lui per motivi di studio questa settimana non fa parte della crew. E niente, oggi iniziamo questa che è una freddissima giornata di venerdì. Di fine gennaio ormai, quello che è venerdì fine gennaio. Iniziamo col primo pezzo e poi iniziamo la puntata dritti dritti, ci scaldiamo così. In the jungle, the mighty jungle, the lion sleeps tonight. In the jungle, the quiet jungle, the lion sleeps tonight. Near the village, the peaceful village, the lion sleeps tonight. Near the village, the quiet village, the lion sleeps tonight. Torniamo in diretta per questa che è la nostra seconda puntata della seconda stagione di Jolly Roger. Puntata che iniziamo a spiegare come si svolgerà. Il tema della puntata sono le passioni. La passione intesa come amore verso l'altro sesso, il sesso o dello stesso sesso. Parleremo delle passioni intese come hobby, tutto quello che insomma ci riscalda il cuore, visto che è una freddissima giornata, come detto a inizio puntata. E niente, quindi la passione, tutto ciò che ci spinge a fare le cose, così come la passione che sta diventando quella di Jolly Roger. E noi proseguiamo con la nostra prima, diciamo, il secondo pezzo che introduce quello che è il tema della puntata. e lo facciamo raccontare da un pezzo di Neffa. Dammi passione, anche se il mondo non ci vuole bene, anche se siamo stretti da catene e carne da crocifissione. Presto noi sogneremo distesi al sole di mille primavere, senza il ricordo di questa prigione, di un tempo lontano ormai. Abbracciami e non lasciarmi qui, lontano da te. Abbracciami e fammi illudere, che importa se questo è il momento in cui tutto comincia e finisce, giuriamo per sempre però, siamo in un soffio di vento che già se ne va. C'erano le parole, c'erano stelle che ho smesso di contare, perso nei giorni senza una ragione, nei viaggi senza ritornare. Ora tu non spiegare, tanto lo sento dove vuoi il dolore, quando la notte griderà il mio nome. Nessuno ricorderà. Abbracciami e non lasciarmi qui, lontano da te. Abbracciami e fammi. E ritorniamo in diretta. Appunto. Che importa se questo è il momento in cui tutto comincia e finisce. E ritorniamo in diretta, queste sono, l'abbiamo fatto introdurre da Neffa il tema della puntata, passione, tutto ciò che ci riscalda, tutto ciò che ci dà calore, che ci dà energia, può essere l'amore, può essere un hobby, può essere tutto ciò che ci coinvolge e ci dà modo di poter sognare ad occhi aperti. E quindi niente, appunto, quei ragazzi si parlava delle proprie passioni e ora facciamo spiegare anche a loro quali sono le proprie passioni. Passiamo intanto il mic al nostro amico Matteo. Ciao a tutti! Quali sono le tue passioni, Matteo? A me, Mangioni, giocare a calcio, alla play, vedere tutte le partite e piangere con papà e mamma. Mitico, sì, chiaramente visto che una delle sue passioni appunto è il calcio, non a caso abbiamo la rubrica delle scommesse, dei suoi pronostici. Gli piace molto viaggiare con la famiglia. Obiettivamente, io lo conosco da svariati anni, quando eravamo tutti e due giovani gagliardi e tosti. E obiettivamente, negli anni i suoi viaggi sono sempre stati molto interessanti. Ora, Luca, invece, parliamo con te di quali sono le tue passioni, o meglio, quali pensi che siano le tue passioni. Le mie passioni sono ascoltare la musica, giocare, tipo a calcetto, vabbè, la console nuova che giustamente vorrei battere un record, perché se non lo batto giuro che mi incavolo, e gufare la Lazio. Vabbè, mi sembrano passioni abbastanza serie e normali. Allora, passiamo al primo pezzo, uno dei primi pezzi scelti dalla crew. L'uomo sogna di volare, guardare dall'alto, planare sul mare. Che si trovi su un aereo o in un grande appartamento, sui gradini di una chiesa, nella favela di Kangiao. L'uomo sogna di volare e scrive sui muri, noi siamo tutti uguali. Ma prega nel buio la sorte del più debole. Non tocchi mai a me, come diventa facile voltarsi e non guardare. E come diventa facile pensare. L'uomo sogna di volare, guardare dall'alto, planare sul mare. L'uomo ha voglia di cambiare, ma non sa più come fare. L'uomo ha voglia di cambiare, ma non sa più cosa fare. L'uomo sogna di volare. E allora, partenza, decollo, non c'è nessun controllo. Scatto, riparto, ci sono cose che volevo, ma non ti ho detto mai come diventa facile voltarsi e non guardare. Come diventa facile pensare. Fate come me, non fate come me, non fate come me, non fate come, non fate come me, non fate come me, non fate come me. E ritorniamo in diretta, questo è Jolly Roger. Parliamo appunto di passioni, di hobby, di interesse, insomma tutto ciò che ci riscalda il cuore. In questo caso si parla anche di amore. E quindi niente, ci siamo fatti spiegare anche da Matteo e da Luca quali sono le loro passioni e i propri interessi. Abbiamo scoperto, cioè, anzi, Matteo ci ha ribadito le sue passioni per il calcio. Abbiamo parlato delle passioni per la musica, per Luca, anche di un suo interesse a fare, creare cose, insomma, sono tutte cose che ci appartengono. Sono cose soprattutto che ci permettono un attimino anche di confrontarci con le persone, cioè avere delle passioni significa avere anche delle amicizie in comune, frequentare delle persone con le quali poi potersi approcciare e magari con le quali collaborare, creare delle cose, un po' come ci stava raccontando Luca la settimana scorsa, l'idea quella di creare delle magliette di Jolly Roger, ma perché? Perché comunque legato a un suo interesse che sta sviluppando in quest'ultimo periodo, diciamolo, che ti sta piacendo, ti sta interessando, e spiegaci un po' questa tua nuova passione, che è soprattutto chi ti ha permesso di conoscere, di avere modo di parlare con e frequentare persone. Raccontaci un po'. Allora, tutto questo è iniziato che Chiara mi ha chiesto esattamente di andare a questo lab a Puzzle, che sta vicino, praticamente sta a Piazza Monte Gennaro. E ho conosciuto nuovi amici come Valerio, Sara, eccetera, eccetera. La prima allora, per prima abbiamo fatto, io ho fatto uno stereo dipingendolo come stencil, poi dopo un po' abbiamo usato le bombolette. Il primo giorno Lucone ha fatto un grande gufone, poi abbiamo fatto il razzo, eccetera, eccetera. Poi uno per volta abbiamo intervistato Mooncraft, The Frag, queste parti di Roma. Praticamente, allora, ora spieghiamo un attimino a chi non conosce tutta la storia. Allora, praticamente Luca ha partecipato a un progetto che si chiama il progetto Totem, e questo progetto Totem, tra cui salutiamo i nostri colleghi Veronica, Stefano, Barbara, i ragazzi di Totem che fai tante cose, un anno fa sono venuti anche qui, quindi magari sarebbe il caso anche di rinvitarli, di averli qua in studio con loro, magari riaffrontare questo discorso. E proprio facendo questo progetto ha scoperto la passione per le bombolette e per gli stencil. Una parte di questo progetto appunto prevedeva la realizzazione di un totem che è stato fatto in diversi punti del quartiere del terzo municipio, era quello proprio di un stencil che aveva la forma del totem e quindi del gufetto, insomma è stato tutto un progetto studiato, soprattutto il disegno. E a Luca è piaciuto, si è affacciato al mondo degli stencil, delle bombolette. Gli stencil si fanno stampando, tu devi tagliare con un taglierino, fare la forma per bene, altrimenti succede un grosso casino. Poi tenere fermo sul muro, su una maglietta, usare la bomboletta e aspetti che la vernice si asciughi. Perfetto. E dall'idea che era quella di, appunto, ha creato questo totem che è stato realizzato in diversi punti, come si diceva prima, del terzo municipio, ed era quella di frequentare, di continuare a frequentare le persone che ha conosciuto, quindi Puzzle e tutto l'entourage, diciamo così, di Puzzle, affinché per, dici tu un po' cosa? Si parlava di realizzare dei telai, spiegaci un po' cosa sono questi telai, come si realizzano. I telai sono è una specie di oggetto che si usa anche sul cavalletto d'arte. Esattamente, tu puoi dipingere, fai come i pittori francesi, e il telaio serve a mettere l'immagine della radio, scusate per lo spoiler, che faremo e le venderemo. Questa cosa non è ancora ufficialmente fatta. Beh, mi sembra che ha spoilerato abbastanza, e dopo questa inizio chiacchierata proseguiamo con un altro pezzo musicale e poi ritorniamo in diretta continuando a parlare sempre di passioni. Come diceva Gesù, ma pure mia nonna, chi rompe paga. Io ci credevo al Bluetooth, ma forse era meglio se funzionava. E invece solo chi mi odia mi segue sempre. Volevo scrivere la storia sinceramente, ma poi combatto con il filo delle cuffiette. Che cosa ho fatto io di male? Dimmi. Che senso ha questa maledetta felicità? Se ci guardassimo da lontano sarebbe tutto un po' più piccolo, un po' più facile. Oh, oh, oh. Come dire ciò che penso davvero, però allo specchio da lontano. Le mie parole sono stupide, è tutto inutile. Tanto, è tutto inutile. Tanto, è tutto inutile. Come diceva Gesù, ma pure mi hanno... Aspetta, questo l'ho detto. Scusa, sono distratto, a volte grido ad alta voce quello che penso. ragazza non si dice. Da quando mi hanno messo in testa che devo essere felice e fare il bravo non mi conviene, se poi ogni volta che ci provo nessuno vede. E dopo il dolce arriva il conto e poi l'amaro, così se voglio mi lamento del fatto che il mondo è buono e caro. Che senso ha questa maledetta felicità? Se ci guardassimo da lontano sarebbe tutto un po' più piccolo, un po' più facile. Oh, oh, oh, come dire ciò che penso davvero, però allo specchio da lontano. Le mie parole sono stupide, è tutto inutile, tanto è tutto inutile, tanto. Lo sai che tutto già scritto e già l'hanno fatto, e baby I love you te l'hanno già detto. E non mi rompere il cazzo che San Valentino è soltanto una scusa per fare un bambino. È tutto inutile ma è tutto qua, è tutto, tutto qua. Che senso ha questa maledetta felicità? Se ci guardassimo da lontano sarebbe tutto un po' più piccolo, un po' più facile. Oh, oh, oh. Come dire ciò che penso davvero, però allo specchio da lontano. Le mie parole sono stupide, è tutto inutile, tanto è tutto inutile, tanto. E ritorniamo in diretta, questo è Jolly Roger, tema della puntata, le passioni, tutto ciò che ci riscalda, tutto ciò che ci dà calore in questo freddo venerdì di gennaio. E si parlava di passioni, appunto con Luca parlavamo delle passioni, ha spoilerato qualche cosa che prima o poi riusciremo a realizzare con i potenti mezzi di non solo di Jolly Roger ma di Pirate Radio, ma lo faremo anche perché ne stiamo parlando a sufficienza e cose, e dopo raccontarle e bello farle. E si parlava quindi di passioni, e Matteo ci parlava della sua passione per il calcio. Nessuno immaginava questa sua passione, visto che si parla di calcio andiamo direttamente con i nostri pronostici del fine settimana. Andiamo Ciccio, dai Verona Lecce, Vite Verona, poi Napoli Salernitana. Il derby campano vinto dalla Salernitana, vabbè, giocatelo, mi raccomando. Poi mio Dio Torino e Pite Torino, poi la parola Uninete Pite la Trap, e ultima partita La parola Uninete Mota d'Arzolo Pite Monza. Perfetto, e questi sono i pronostici del nostro amico Matteo. E mi raccomando, vale sempre la stessa cosa che ripetiamo ormai da un anno a questa parte: giocate, se vincete siamo sempre in quel del Brancaleone, via di Levanna numero 11, in questo momento siamo al secondo piano, se ci volete portare da mangiare e da bere tutto è ben accetto. E passiamo il pezzo scelto dal nostro amico Matteo, noi qualche giorno fa lo ascoltavamo e cazzeggiando si diceva: è proprio vero, tu sei il gatto e io sono la volpe. E quindi andiamo così. Quanta fretta, ma dove corri, dove vai? Se ci ascolti per un momento capirai: lui è il gatto ed io la volpe, stiamo in società, di noi ti puoi fidare. Vuoi parlarci dei tuoi problemi, questo campo siamo noi, è una ditta specializzata, fai un contratto e vedrai che non ti pentirai. Noi scopriamo talenti e non sbagliamo mai, noi sapremo sfruttare le tue qualità, dacci solo quattro monete. Non capita tutti i giorni, Non capita tutti i giorni di avere due consulenti, due impresari che si fanno in quattro per te. Quanta fretta, ma dove corri? Dove vai? Che fortuna che hai avuto ad incontrare noi. Lui è il gatto ed io la volpe, stiamo in società, di noi ti vuole fidare, di noi ti vuole fidare, di noi ti vuole fidare. E ritorniamo qui in quel di Jolly Roger, siamo in diretta da Brancaleone. Nel frattempo è arrivato il nostro amico Lucone, la prima cosa che ha detto: ma siete tutti, siamo solo maschietti questa sera? Purtroppo non aveva visto la nostra amica Chiaretta messa in un angoletto, ma non per colpa nostra, abbiamo fatto presente a Chiara che c'ha ragione Luca e si deve far crescere i capelli, questo è il sunto del messaggio. Abbiamo parlato quindi dei pronostici del calcio di Matteo, stiamo parlando delle passioni, tutto ciò che ci interessa, come ho detto finora, ci riscalda il cuore, un po' come chi ha fatto delle proprie passioni e dei propri hobby, anche uno fra tanti, il proprio lavoro. Ad esempio ci sono i cantanti, i musicisti, abbiamo i calciatori che sono riusciti grazie alla tanta volontà, forse anche alla conoscenza, la voglia di emergere, il calore che gli concede tanta buona volontà, gli permette di arrivare a quelli che sono traguardi molto importanti, quindi diventare famosi. Abbiamo parlato, insomma, quindi stiamo parlando anzi di tutto ciò che ci può portare piacere e giovamento. A noi ci piace stare qui in compagnia, questo già è una passione, quindi la passione del gruppo, perché Jolly Roger è un gruppo e senza il gruppo non esisterebbe Jolly Roger. E detto questo, Matteo in questo momento mi guarda e mi dice: ma io devo fare dei saluti, e fammi salutare, e io mo ti faccio salutare. Ciao prof! Come si chiama la prof? Saluta bene la prof, che chiaramente oltre a salutare tutte le prof del terzo E linguistico dell'Orazio, una professoressa che volevi salutare? Giovanna Mirra! Esatto, vuole la salutare la prof Mirra, che noi ringraziamo. Prossimamente avremo sempre qui, sempre in maniera organizzata, visto che comunque è un gruppo molto itinerante, è una gru aperta, e quindi una volta siamo tot, una volta siamo di più, organizzeremo quello che ormai è diventato una piacevole collaborazione con i compagni di classe, il nostro amico Matteo. E ora Matteo passa e dedica questa canzone a tutti i suoi compagni di classe, a tutti i suoi compagni del terzo e linguistico dell'Orazio. Lo so, un amore tossico, se il mio sbaglio più bello, adesso che ti ho riperso in paradiso, suona disco inferno e gira la testa più di me. Vedo bianco, ma è soltanto il tuo vestito, è una festa, e neanche mi dici ciao. Parlavamo di tutto, ora nemmeno un ciao. Con te ero in alto come un jet Top Gun, la notte volava sopra la città. Rido ma forse vorrei piangere, al cocktail aggiungerò una lacrima. Mi ha detto ancora di no. Mi ha spento come un iPhone e resta il buco di un proiettile. I take a match of heaven. E questo era il pezzo nuovo di Bunda Bash con gli Eiffel 65 Heaven. E questo è il momento di quelle che sono le nostre rubriche che abbiamo deciso di mantenere pur parlando sciolti e disinvolti. E quindi passo il mic direttamente al nostro amico Luca che ci dirà le sue i suoi consigli per gli acquisti. Offerte Carrefour, Hyper, Market ed Express. Coca-Cola classica a un litro a 50 centesimi. Prosciutto cotto Carrefour stagionato 3 mesi a 1 euro. Cereali Pandistelle a 1,50 euro. Monster a vari tipi a 50 centesimi. Sembrava più quelli lì del supermercato quando dicono i numeretti. Ora serviamo il numero 65. Perfetto, uguale uguale. Anche questa De Luca è una passione, quella di andare a cercare le offerte e di consigliare a tutti gli ascoltatori. C'è chi, come dicevamo prima, ha fatto delle proprie passioni e degli hobby anche un lavoro. Ci stanno tanti youtuber che, diciamo, anche detto fra di noi, non hanno né arte né parte, però nonostante le loro minchiatelles che si inventano, riescono ad essere seguiti, essere sponsorizzati, ad avere un seguito, ad essere anche imitati, perché quello un po' poi diventa quel mondo. Quindi diciamo che sono passioni anche un po' lontane forse dalla mia generazione di quarantenne, però sono comunque passioni, sono hobby. Le mie passioni sono state fin da quando sono cresciuto la musica, tutto ciò che era intorno alla musica, la condivisione con gli amici, dal registrare le prime cassette e prestarle agli amici con la speranza anche di riaverle, questo è quello che poi uno fa delle proprie passioni e dei propri hobby. E noi proseguiamo con un'altra scelta musicale e poi ritorniamo in diretta sempre qui dal Brancaleone. Anchito baby, Michelangelo, mettimi le ali. Anche se prendessi un ergastolo, sto con te finché non mi seppelliscono. Sto con te, voglio vivere sempre il brivido di star con te, di star con te, di star con te. Mentre dormivi sul prato, oh, oh, oh, ogni difetto lo apprezzavo, oh, oh, oh, anche mi avessi accoltellato, oh, oh, oh, mi sarebbe piaciuto, mi sarebbe piaciuto. E faccio mentre ti stropicci gli occhi, faccio mentre gesticoli ancora, no, no, no, capisci cosa ti faccio, ti picco tuo corpo. Anche se prendessi un ergastolo, sto con te finché non mi seppelliscono. Sto con te, voglio vivere sempre il brivido di star con te, di star con te, di star con te. Anche se prendessi un ergastolo, sto con te finché non c'è, il senso poi dov'è, ci siamo presi a sassati, ho le nocche bruciate, da quanto non importa, lo posso anche scordare, ci ripenso ogni volta, ora non fa più male. E faccio mentre ti stropicci gli occhi, faccio mentre gesticoli ancora, no, no, no, capisci cosa ti faccio, ti pingo tuo corpo. Anche se prendi E anche questo è un pezzo nuovo scelto appunto dalla crew, questo è Blanco, scelto dal nostro amico Matteo, che fa tante cose, è stato lui a farmi scoprire Blanco, lo stavo svelando ora che non stavamo in diretta, sì, grazie a lui che ho conosciuto Blanco, la mia ignoranza è tanta, ma meno male che c'è qualcuno che me la... mi dà modo di colmare queste mie lacune. Si parlava di, quindi, di passioni, anche Blanco ha la passione per la musica, che era il mio Luca, e Blanco è diventato Blanco. Si diceva che Blanco è un bravo artista, perché soprattutto perché è giallo-rosso, quindi, e no, blanco-azzurro, battutazza. Questa era l'anteprima di quello che è il momento del nostro amico Luca, e sono le battute, passo il mic a lui che sicuramente fa più ridere di me. Battute. Sai qual è il paese più sporco del mondo? Strasburgo. Ma se due frate non si frati non si capiscono, allora si fraintendono. Se una dimentica le cose, le corde, si scorda. Stop così, queste erano le battute, erano tre, quindi ha detto, mi ha guardato un attimino storto come per dire, vai con la musica, io ti passo il pezzo che hai scelto tu, vado the play. Lately I wanna stay away. Remember the days to end. I know you'll fly away. Need to hold you for myself. I feel time run through my hands. Try to grab it but it fades. Say goodbye in all the possible. Ricca di spunti questa di Jolly Roger. Siamo quasi alla fine della nostra puntata, abbiamo raccontato un po' quello che sono i nostri interessi, i nostri hobby, come sto ripetendo da inizio puntata, sono tutte cose che come abbiamo detto ci appartengono e soprattutto ci vedono chiamati in causa in prima persona. Vedo un attimino Luca un attimo sbaragliato che mi guarda un po' assente, ma sì, cioè, ci ha raccontato anche lui, è rimasto un po' colpito soprattutto in quest'ultimo periodo da questi stencil, da tutto il mondo che gira intorno alle bombolette. Prima o poi magari anche lui di questa cosa ne farà un lavoro, ne creerà un qualche cosa, perché insomma l'intento quello di avere anche delle passioni e di farle crescere, di crescere insieme alle passioni. È un giovane, possiamo dire, se quasi sedicenne, non sedicente. Allora, questa domenica io faccio ben 16 anni e perciò forse domani chiederò a mio padre, visto che mia madre forse va dai suoi genitori a San Basilio, comunque sta a Roma, volevo andare a Babbo e prendere qualcosa, così almeno me lo mangio, tipo burro d'arachidi e tanta roba mi vorrei prendere. Giustamente, chi ha 16 anni, problemi di colesterolo e compagnia belle, manco sa che vuol dire. Se io ti parlo di colesterolo, tu, caro il mio Luca, sai dirmi cos'è il colesterolo? È la malattia del cuore. Nì, diciamo che prima o poi, se c'era Damiano, a questo punto si apriva tutto un mondo su quello che potevano essere le varie malattie. Ma niente, andiamo con un altro pezzo musicale e poi ritorniamo in diretta sempre dal Brancaleone. Questo è Jolly Roger, tutti i venerdì dalle 17 alle 18. Bambù. ¿Y qué fue? ¿Y qué fue? No hiciste nada. No hiciste nada. Con tanta chapa, pa' hacerle ranquito can, quin, can. ¿Y qué fue? ¿Y qué fue? No hiciste nada. No hiciste nada. Con tanta chapa, pa' hacerle ranquito can, quin, can. Bambú. Doggy Style. Que la liga la mata, muñeca metiste la pata, mate. Deje ese paquete, paquete, paquete. Si a ti te ganaste la ñata, busque mal por la tipa se trancó. Parece que le falta aceite ese motor. ¿Y qué fue? ¿Y qué fue? No hiciste nada. No hiciste nada. Con tanta chapa, pa' hacerle ranquito can, quin, can. ¿Y qué fue? ¿Y qué fue? No hiciste nada. No hiciste nada. Con tanta chapa, pa' hacerle ranquito can, quin, can. Bambú. Ven que yo quiero ver lo que me dijiste la otra vez. Que tú eres la dura, la perra, la montra. Tú eres una movie de TNT. Y el loco, happy, pensando que tú eres la C. En Ford te pusiste en taqui. Al final te volviste nothing. ¿Y qué fue? ¿Y qué fue? No hiciste nada. No hiciste nada. Con tanta chapa, pa' hacerle ranquito can, quin, can. ¿Y qué fue? ¿Y qué fue? No hiciste nada. No hiciste nada. Con tanta chapa, pa' hacerle ranquito can, quin, can. Bambú. E questo è il pezzo musicale scelto dal nostro amico Luca. La crew oggi è un po' non è al top e non è al completo. Non è al top perché fa veramente freddo. Obiettivamente sta iniziando a nevicare anche ai castelli. Diamo questa informazione meteorologica. Ma nonostante tutto ci siamo scaldati, è andata questa nostra oretta di Jolly Roger parlando, raccontando un po' di cose che ci riguardano. Risalutiamo la nostra amica Alice, che non è presente neanche lei per dei problemi di salute. Salutiamo il nostro amico Damiano, salutiamo chiaramente tutti gli amici e tutte le amiche che ci ascoltano. E tutte quelle che ci ascolteranno in podcast, quindi vi invitiamo ad andare sul sito pirateradio.it, alla sezione podcast troverete tutti i podcast non solo di Jolly Roger, quindi la bellezza di 37-38 puntate. il nostro mixtape, e anche quello frutto della passione della musica estiva, soprattutto dei balli estivi dei ragazzi. È stata una puntata sciolta e disinvolta, così l'abbiamo definita. Settimana prossima probabilmente avremo un ospite qui in diretta, ma noi non spoileriamo più niente, un po' perché comunque l'influenza sta colpendo una settimana sì, una settimana no, quindi per rimanere, diciamo, aggiornati, spoileremo quanto prima nei nostri canali social quella che sarà la prossima puntata. E intanto andiamo con il nostro penultimo pezzo, poi ritorniamo in diretta per i consueti saluti e andiamo così. Forse è vero che di notte tutto viene un po' più facile, che il buio mette insieme chi c'ha l'anima più fragile. Ed è vero che la sedia quando si ferma la canzone è di chi corre più veloce, non di chi balla con passione. Forse è vero che ho sbagliato, sì, ma ci siamo divertiti. Siamo freddi come grotte e lanciamo stalattiti. Quando piove spero mi ricorderai come un piccolo forse perso dentro di tuoi mai. Non c'è nessun posto per quelli come noi che vivono sui rasoi, ma mi son nascosto nei tuoi. Non c'è niente che non va e cerchi le mie colpe nella mia musica, fragile come un golpe in Sud America. La nostra buona stella parla in codice morse. Le ho chiesto di stasera e mi ha risposto forse. Forse è vero che ti ho stretto troppo forte e troppo spesso. Volevo essere indelebile, invece ero solo gesso. E rigo dritto come un aereo, atterro in pista. Tolgo la testa dalle nuvole e la regalo a un terapista. E ci vuole un po' di fegato pure ad essere un coniglio, perché non è mica facile vivere al buio in un cilindro. Poi t'arrabbi, dici che non te ne importa e fai bella come il sole quando c'hai la luna storta. Non c'è nessun posto per quelli come noi che vivono sui rasoi, ma mi son nascosto. C'è niente che non va e cerchi le mie colpe nella mia musica, fragile come un golpe in Sud America. La nostra buona stella parla in codice morse. L'ho chiesto di stasera e mi ha risposto forse va bene. Quali come noi che vivono sui rasoi, ma mi son nascosto nei tuoi. Non c'è niente che non va e cerchi le mie colpe nella mia musica, fragile come un golpe in Sud America. La nostra buona stella parla in codice morse. Le ho chiesto di stasera e mi ha risposto forse. La nostra buona stella è la peggiore tra le luci. E se ci credi troppo, va a finire che ti bruci. Ai. Notte. E ritorniamo in diretta, ultimi minuti per noi, questo è Jolly Roger, siamo al termine della nostra puntata, abbiamo parlato di passioni, tutto ciò che ci riscalda, che può essere amore, hobby, interessi, e siamo arrivati alla conclusione che gli hobby, gli interessi e anche l'amore sono tutte cose che ci fanno crescere e soprattutto che ci migliorano. Nel frattempo è arrivato anche il nostro amico Otello Tawili, che salutiamo e facciamo salutare. Buonasera a tutti, come sempre, è sempre un piacere sta qua. Però io una cosa ci tengo, Matteo Orsette se l'è meritato. Sì, stavamo parlando di voti, esercitazioni, interrogazioni, volano voti, si parlava anche di compleanni, visto che questa domenica sarà il compleanno del nostro amico Luca, l'hai spoilerato tu e quindi mo mi toccava ricordarlo a fine puntata. E amo detto di non parlarne, ma lui ha tirato fuori Ergiolli dalla puntata, siamo a Jolly Roger, quindi ci pareva il caso. E niente, salutiamo tutti quanti, ci riascolterete settimana prossima come consuetudine tutti i venerdì dalle 17 alle 18. Si spera di ritornare e di ricondividere lo spazio con le nostre amiche del gas. Intanto buon weekend a tutti e a tutte. Ciao! Buona serata a tutti, ci vediamo venerdì prossimo, come sempre, dalle 17 alle 18, e comunque forza Magica Roma e Lazio schifo. Vabbè, per par condicio facciamo di anche qualcos'altro, amico Lazialotto? Sì! Vabbè, lui ha accettato così, va bene così, e buon weekend. Lazio schifo. E così parla il nostro amico Luca e finiamo la puntata con un altro pezzo musicale. A prossima settimana. Ever since I was young, coming up. I was marching to a drum, brat-a-thum. Always focused on me, one. Now I wish that I could hold someone. So tell my mama love her, call my baby sister. Shoot a hug and kiss her, cause life is just a mystery. And it's gone before you know it. So if you love me, won't you show it? Cause this life is one big symphony. This night is one for you and me. I'm the strings and you're the timpani. This life is one big symphony. So glad I got you next to me. I'm the chords and you're the melody. This life's one big symphony. She was the piano and the xylophone. You can have the trumpet on the saxophone. Life is skipping rope, keep going. Find a solace in the note, do. Had the struggle when I was broke, so low. Writing music just to cope, no hope. Yeah, life is just perspective. Laughing when you wrecked it, but smiling when you kept it together. You weathered the storm at the end of the play. You sang all the way. Doesn't matter how off key, if you did it, you win. This life is one big symphony. This night is one for you and me. I'm the strings and you're the timpani. You're my constant tambourine. This life is one big symphony. If I played you the flute, see it's my favorite one, cause it's so delicate and beautiful. I pull out the trombone if it's more suitable. Wanna make you smile, it's been a little while since I've seen the bite of your teeth. Been a hard year, lucky the guitar is here.